orizzonte nello specchio, orizzonte dentro me, ho distrutto tutto il tempo, perché il tempo è solo mio, c'ero passo sui capelli, l'orizzonte dentro me, ho scolpito sulla pelle, che chi piange ride. Cento occhi, cento occhi come spie, ma quei bastardi ridono, mi hanno tolto mani, occhiali, occhi, occhi, occhi, occhi, occhi, occhi, occhi. We'll be right back.